24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. No, non mi sono candidato al leader del centrodestra, perché il centrodestra ha già un leader di ieri, di oggi e di domani, che è Silvio Berlusconi. Potrà fare il leader da casa, dal carcere, dai domiciliari, dai servizi sociali. Dove vuole, ma io l'importante è che inizi ogni puntata con una frase del mio mito assoluto, Gianfranco Rotondi, un grandissimo, tutti i giorni bisogna iniziare così, Gianfranco Rotondi, ieri all'area che tira da Mirta Merlino, il leader di oggi, ieri e di domani è Silvio Berlusconi, va bene. Allora, buongiorno, come state? Bene? Noi benissimo, Miriam Lucchetti, oddio, in redazione fa una faccia e dice, vabbè, sono pur sempre le 6:34 minuti, il nostro alpino Peter Bescapesta, benissimo, è lì in regia, Bombardino pronto, il più grande finanziatore della scuola pubblica italiana con le accise sugli alcolici, si sa, è lui il nostro regista e allora può aprire subito il Parlamento, evviva, siamo qua. Il caffè volentieri a tutti quanti. C'è la Nicole. Evviva! E allora, cari. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Io speravo. Forse hai preso anche tu i suoi favori? Trozzate col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Ho detto oggi non si è svegliata. Invece si è svegliata. Molto contento. Io. Lei non lo so. Lia Celi, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Alessandro, io il caffè della Minetti lo vuoi? Lo accetto, anche oh, perché, vedi, no, accetto perché come sai è una mia concittadina e io ne sono molto fiera. Ah, già, è vero, di Rimini. Rimini, abbiamo frequentato lo stesso liceo in epoche diverse, bisogna dire, però. No, stai scherzando. No, davvero, lo stesso liceo, liceo classico Giulio Cesare, dove adesso va mia figlia, io la mando senza paura, anche se pare che il bidello ai visitatori dice quello era il banco della Minetti, quindi è diventata perfino una, dopo Fellini, Zavoli, Pappoli, la Minetti. Ma c'è anche il palo della lap dance o sul banco, dico. No, quello che è la palestra. Le pertiche, le famose pertiche. Di straordinario, che salire sulla pertica era un dramma, allora, io me lo ricordo. Lo so che stamattina siamo soli al bar, ma i doppi sensi, dai. Non siamo soli perché c'è il grande parafulmine, sì, Mario Adinolfi, buongiorno. Buongiorno, io non la facevo la pertica. No, la è come... buttavo giù se ci sto fanno. Come eri sulla pertica? Per me era peggio la cosa. Però. Io il classico secchione che educazione fisica prendeva alla fine 7 per meriti scolastici. Diciamo. Ah sì, sai bene il latino, 7 in educazione fisica. Esatto. No. Mi rifiutavo di compiere sciocchi esercizi. Vabbè. No, ma educazione fisica era bella perché male che tu andassi prendevi 7, se invece andavi male in latino prendevi 5. Allora, volete anche voi fare la vostra metafora sulla concordia rialzata come l'Italia? Forza Maria Adinolfi, di la tua. Ho letto che Mentana ce l'ha vietato. Sì, esatto. Mentana ci ha detto che non bisognava farlo, 8 secondi dopo. Roberto Saviano, evidentemente ignaro della fatua di Mentana, ha fatto la sua metafora. Io mi fermo lì perché tra Saviano che la fa e Mentana che la vieta, che ti puoi inventare? Ma io ieri mattina ho detto: speriamo si raddrizzi la barca. Tutta questa festa perché abbiamo raddrizzato una barca affondata. C'è una cosa che francamente non ho capito. No, oggi c'erano tutti i sorrisi, gente felice, le sirene che suonavano. Quelli del Giglio diranno così almeno ce la levate dalle palle, diciamo. Sì, da un anno, aprile, se ho capito. Che noi abbiamo messo 20 mesi a raddrizzarla, adesso ce ne mettiamo, non si capisce perché. Altri 9 per spostarla. E poi c'è quello per demolirla, non si sa. E poi c'è quello per demolirla. Tu, Lia, vuoi fare la tua metafora dell'Italia che si rialza? La metafora sulla la similitudine tra Concordia e Italia è stata fatta praticamente il 14 gennaio dell'anno scorso, cioè da quando è successo il. Adesso ci rialziamo, no? Appunto. Però devo dire che io l'entusiasmo lo capisco perché una volta che una cosa riesce nei tempi previsti, insomma, veramente un miracolo, perché già ieri quando c'erano stati i primi ritardi, no, causa maltempo, mm-hmm. Si sapeva che andava a finire così. E invece nei tempi previsti si è rialzata. Ma è incredibile. E comunque non c'è giornale, non c'è TV, se voi accendete adesso la TV che non abbia, no, la Concordia dritta con l'alba sullo sfondo dell'isola del Giglio. Ma poi si sa che alla mattina, insomma, certi drizzamenti sono anche... Vabbè, in radio peccato che non si riesca a vedere. Comunque, allora vi voglio... molti giornali aprono proprio su questo, anche il Corriere, la difficile risalita della Concordia. Peraltro, cari amici giornalisti e dei giornali, insomma, fate un titolo che è già vecchio alle 6.39 del mattino, perché è stata rialzata, è stata messa in asse questa mattina, quindi uno compra il Corriere, anche se lo compra adesso è già passato ad Inolfi. Il titolo di prima pagina è già finito. Il drammatico tempo del web, insomma, esatto. Già buono vinca il terpice. Esatto. Anche questo, guarda che è una novità, perché di solito queste cose oggi si fanno in modo che avvengano all'orario del telegiornale. È chiaro, della sera. Alle 8:05, in modo che... E questa volta è pre tempi dell'informazione, perché è avvenuto di notte quando nessuno poteva guardarlo, almeno forse le TV americane, ecco, era sul fuso orario americano, infatti era Carnival, la compagnia che costa, sì. La costa. Forse quindi... sì, esatto, per la prime time della CNN. Allora, ci sono, invece voglio subito chiedervi questa cosa sulla politica, perché così ci avviciniamo al voto. Sapete come titola oggi Libero? L'avete tu, Mario, l'hai già vista la prima pagina di Libero? No, vabbè, io l'ho messa su Twitter. Ecco la linea del PD, e la linea è un dito medio alzato. Perché? Perché c'è questa battaglia sul il voto palese o segreto che ci sarà su Berlusconi, per cui le escogitano tutte. Allora qui abbiamo un ex parlamentare, Maria Dinolfi, che ci può spiegare come si può far vedere che si vota quello che si deve votare. Cosa si fa? Si alza il dito medio? Si tiene... C'è una tecnica per cui si sa dove in realtà il bottone rosso o verde si colloca. Tu alzi le altre dita e fai vedere che ne metti dentro solo uno. E ti fai fotografare mentre alzi un dito. Se ne metti dentro più di uno, puoi fare il giochino. E c'è Libero che titola col dito medio alzato. Dito medio alzato in prima pagina. C'è Lia Celi, il segretario d'aula del PDL, che ha detto: girerò tra i banchi per controllare al voto. Manco alle elementari. Ma che bello, ma se il PD lo facesse veramente. Poi sai, il medio stat virtus, quindi insomma, come diceva la Minetti al liceo di Giulio Cesare. Ah beh. Magari sarebbe un gesto di rottura, insomma, anche il turpiloquio e la parolaccia è tutta roba che dobbiamo lasciare al centrodestra, no? Anche noi, dai, divertente. Ma vi rendete conto, Maria Dinolfi, ma questa vicenda come finirà? Intanto prima c'è il video, c'è questo video, ci sarà il video. C'è il video, oggi c'è. Il video di Berlusconi. Il video, diciamo, quello un po' più buonista, poi ci sono due video, questa è una cosa divertente, insomma. C'è uno cattivo e uno ancora aperturista, insomma. Pare che oggi vada in giro quello aperturista, poi se si cavola parte invece quello tosto, già registrato peraltro. Quindi io sarei curioso di capire se il Movimento 5 Stelle per una volta impara a fare politica. Tu immagina se il 5 Stelle vota compatto a favore nel voto segreto, ovviamente a favore della salvezza per Berlusconi, mm-hmm. che scoppia un delirio, che loro non hanno capito che hanno in mano un potere in questa giocata. Ti ricordi quando ci fu l'autorizzazione a procedere per Craxi nel 1992? Sai chi fu che fece saltare quell'autorizzazione? Furono Missini e leghisti che al voto segreto votarono per far sì che Craxi si salvasse e scattasse poi l'indignazione popolare. Un'operazione del genere sarebbe molto furba, e ovviamente il 5 Stelle non la farà, perché la furbizia non appartiene a... Ma subito diranno perché non hanno, non conoscono tutte le robe così di... No, che conoscete gente come voi, gente paludata... Se il Movimento 5 Stelle nel voto segreto fa, diciamo così, lo scherzetto... Succede il giorno dopo il pandemonio, anzi il minuto dopo il pandemonio, quindi un consiglio di Adinolfi ai 5 Stelle: violate la vostra coscienza e votate per Berlusconi. Fate politica. Allora, c'è uno che fa politica ogni tanto, appare da Lilli Gruber, è Massimo D'Alema. Io ieri, Lia Celi, ieri a un certo momento ho sentito questa frase di Massimo D'Alema e mi sono immaginato milioni di italiani che a lui all'unisono rispondono a D'Alema, senti la frase, eh? Io qualche volta sono così contento di poter esaminare le cose della politica italiana da Bruxelles, da New York, da Washington, o da dove mi trovo, grazie al lavoro che faccio, che il fatto di starne lontano, ecco, anche fisicamente, proprio qualche volta lo trovo consolante. Immagino gli italiani lì. Sì, sì, il fatto è passato ovviamente il coro. A parte il fatto bravo D'Alema, statene lontano. Il tono ampulloso di D'Alema, cioè, veramente veniva ormai da un secolo lontano, un po' come Rotondi, cioè l'equivalente. Non toccarmi Rotondi. Non toccarmi Rotondi. Non toccarmi Rotondi, No, no, però è alla fine il Rotondi di sinistra, perché veramente ormai è un reperto storico di un periodo finito. No, ma è fantastico. Che ormai tutto quello che è appoggiato da D'Alema perisce miseramente, quindi io manderei già un telegramma di affettuosa partecipazione a Gianni Cuperlo, che è il grande candidato. Grande Cuperlo. Sì, ma ad Inolfi, no? Quando ho sentito D'Alema, è questo modo di fare, tante volte assistere grazie da lontano. Da ma lontano. D'Alema, devi sapere, io l'ho avuto pure come editore, però dal 1998 D'Alema si considera un grande statista internazionale. Ora, chi prova come noi e come lui a girare il mondo e fa la domandina "Do you know Mr. D'Alema?" a qualcuno in qualsiasi latitudine del globo, si fanno la faccia a punto interrogativo. Ma chi è D'Alema? Chi? Ma sbagliano pure il cognome, cioè non sanno proprio chi cavolo sia. Ma lui crede di essere un grande statista internazionale riconosciuto ovunque. E dice meno male che ogni tanto posso guardare da lontano. Non gliene è andata bene una nella carriera di politico, generale in poi. Cioè, praticamente è un Gastone, cioè è un paperino che si crede Gastone, capito? Vabbè, è stato presidente del Consiglio, però adesso non gliene è andata bene una, qualcosa ha fatto nella politica italiana. Ma io ricordo questa sua querela a Forattini per una vignetta. Ah, beh, certo. Il mondo della satira non ha mai avuto la mitica querela a Forattini. Un rapporto molto amichevole con D'Alema, che c'è, diciamo, l'antipatia di solito è sempre stata reciproca, perché comunque è il momento del momento di Mario Adinolfi dopo il traffico. Mario, sei pronto? Prontissimo. La segreteria telefonica dopo il traffico. 24 mattino. Peccato che il grande regista Monicelli non sia più al mondo, altrimenti con i politici che ci ritroviamo non ci avrebbe fatto mancare sicuramente una riedizione dei Nuovi Mostri. Ciao Alessandro, volevo solo sapere, ma che fine hanno fatto i Marò? Ci sono ancora? Io volevo dire popolo della partita IVA, cioè, ma dove siamo finiti? Che cosa stiamo facendo? Ce ne facciamo fare di tutto. I soldi ce li prendono a noi, facciamoci sentire in qualche maniera. Stanno togliendo il pane dalla bocca questi onorevoli signori. Non si calano lo stipendio, come si deve fare, sono una massa di ladri, ladri, ladri. Caro Letta, se cadrà il governo sarà un bene per tutti noi e guai per voi. Noi pagheremo più IMU e mangeremo più pane, ma Bruxelles finalmente ci toglierà dai piedi tutti voi qua qua qua. Non vuoi che si facciano annunci shock e ne hai fatto uno tu che fa paura più a voi parassiti che a noi lavoratori. Vorrei fare un appello a Papa Francesco, che pubblicamente dovrebbe proprio bandire sti cialtroni di politici di andare in chiesa e fare la mia colpa quando stanno affamando un popolo. Ieri qua a Vicenza sul giornale un povero ingegnere di 60 anni si è trovato a rubare 30 euro per mangiare. Ma ci rendiamo conto dove ci stanno portando sti cialtroni maledetti, che il Signore li fulmini? No, perché il Papa non va fuori e lo dice? Siete dei ladroni patentati, non siete degni di entrare in chiesa. Questa è gentaglia che andrebbe fucilata. Se potessi avere una riforma al mese, io non ho pretese, ma con una riforma al mese qualche cosa cambierà. Guardo la TV, non ne posso più, stanno a litigare, cincischiare, litigare, l'Italia poi va giù. Allora, Mario Di Norfe, ma te c'è gente che canta, dite, ma cosa vuoi? Ma mica uno solo, canta più di uno, io sono uno. Detto, la gente è peggio. Allora, gente è peggio, allora. I cialtroni sono lì, è la gente. No, no. Mario Di Norfe mi ha fatto una proposta, cara Lia Celi, di mettere dopo la segreteria telefonica Nanni Moretti che urla... Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Ma io non lo farò grande, mai! Lo fa... no, l'ho non fatto... avrei mai pensato che l'avresti fatto! No, grande, lo faccio grande. Solo oggi! Grande pubblico, mi inchino al pubblico! Grande. Mandate i messaggi alla segreteria! Voi pubblico siete la mia luce, siete il mio grande zen! No, è bello, che Nanni è sempre bello! Comunque dai, alla fine dai diamanti non nasce niente! L'ho fatto solo per Mario Di Norfe, come si fa nelle radio di una volta, a grande richiesta per Mario Di Norfe questa cosa, Lia, ma no, io... No, ma comunque guarda Alessandro, io guardo sempre il lato buono delle cose, per esempio una cosa giusta l'hanno detta, che fine hanno fatto i due Marò? Non lo so. Mandiamo quelli che hanno superato la Concordia a tirarli fuori dalla galera, perché ormai... L'ho chiesto alla Bonino una settimana fa, dice che ci daremo da fare per risolvere la questione, ma quando? I tempi, dire i tempi in ste cose, insomma è un altra po'... cosa, la vera notizia di ieri è che Papa Francesco non ha fatto niente di straordinario, perché è uno dei pochi giorni in cui non abbiamo... Beh, ha detto ai cristiani mischiatevi nella politica, cioè fate politica da destra. Comunque, insomma, io mi dissocio da quello che ho mandato in onda, è vero, Democrazia Cristiana 2.0, Mario Di Norfe, l'ho fatto solo per te, perché... Radio, anche lo so, devi vincere Milan... perché questo momento è molto coraggioso. Adesso fategli sapere cosa pensate di Milan, esatto, in serie telefonica, esatto, dopo la citazione di Moretti. Esatto. Che sì, 02 4652 4492, potete dirmi comunque quello che volete. Ricordatevi che siete peggio dei politici, gli ascoltatori tutti preso uno per uno. Questo potete lo pensa peggio. Mario Di Norfe. Allora là fareste peggio. Vi faccio sentire questa di Matteo Renzi, che ieri ha presentato con Cavalli, lo stilista, e si è presentato così, Matteo Renzi. Io non sono venuto leopardato a presentare il libro di Roberto Cavalli, non credo di avere le physique du rôle. Le solite. No, ma in realtà la domanda che voglio farvi per concludere è questa: asfaltare, Mario, è volgare, come già dicono, come rottavatore, oppure ma basta, ma dai, una cosa giovanile alla Fonzi, vi asfaltiamo anche nel io calcio. Io ho scritto un pezzo, sono che ho spiegato che mi piace se va dalla Maria De Filippi, mi piace meno se usa queste terminologie, direi vincere e convincere batte avanza, asfaltare magari insomma. Vabbè, ma è una cosa anche calcistica, no? Noi per esempio alla Juve l'asfaltiamo, no? Sì, si dice notoriamente, così. Notoriamente, soprattutto negli ultimi due o tre anni. Asfalto a gogo. Sì. Vabbè. Lia Celi, tu trovi volgare e ma non so. Io sempre per citare Twitter, ieri avevo osservato che Berlusconi viene già asfaltato quotidianamente dalla sua truccatrice, quindi ormai c'è già uno strato di bitume addosso che rende così un po' direi superfluo un'ulteriore ricopertura. E poi comunque dai, l'asfalto è volgare nel senso che è un po' triste, secondo me con Berlusconi, che è anche un uomo di un'altra epoca, si potrebbe usare i sanpietrini, non so, queste pietre un pochino più così raffinate per dare un aspetto anche più pittoresco, ricoprirlo di così questi sassi colorati è molto più carino, direi, più che l'asfalto che triste. No, poi dopo dicono Lia Celi dice dei sassi Berlusconi, no, ma nel senso figurato, no? Mosaicamente parlando, ecco, no, diciamo. Una strada bianca, una stradina di campagna, i vialetti voglio dire nei vialetti della Villa Certosa, ti pare che lui va a mettere l'asfalto? No, dove va con Dudu a passare le nottate d'insonnia, quando è insonne. Va bene, io vi devo ringraziare e salutare Lia Celi, grandissima, grazie per essere stata con noi. Dove ti troviamo? Dove, a parte su Twitter, dove ti possiamo vedere, guardare, ammirare? Allora, su Lettera 43 quotidiano online e sul Fatto Quotidiano. Ah, beh, certo, ogni tanto sul Fatto. Mentre Mario Di Norfe, Radio Yes, di che parli oggi? Ah, una drammatica intervista con Nicola La Torre, speriamo di riuscire. Digli di salutarci da Lema, che sì, come senatore voglio sapere se vota col dito medio o no. Ah, perfetto. Grazie a tutti, alla prossima al Giornale Radio. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Pubblico di merda.

e questo ve lo segnalo, senza riva, questo è il titolo di prima pagina del manifesto. Ma siamo, credo, alla chiusura con l'ambito premio La Carta Costa, e cioè l'articolo più inutile scovato sui giornali di oggi. E oggi stravince Enrico Franceschini su Repubblica, un'intera pagina sotto questo titolo: il cane tradisce l'uomo, fedele anche a un robot se gli offre da mangiare. Avete capito, cari ascoltatori? È stata fatta una ricerca addirittura in Inghilterra, dunque immagino pagata con soldi pubblici, voglio sperare di no, ma temo proprio di sì. Si dice: il cane scodinzola quando l'uomo o la donna, il suo padrone, padroncino, gli dà da mangiare. Ma attenzione, è stato fatto un esperimento, è stato messo un robot con sembianze umane che porta la ciotola al cane, e il cane, traditore, scodinzola pure al robot, facendo crollare questo mito della fedeltà assoluta del cane al padroncino. E allora in questa ricerca si chiede: ma come? Ci siamo sbagliati per secoli sull'amicizia del più domestico degli animali nei nostri confronti? Non necessariamente, dicono gli esperti. Forse questa ricerca addirittura fa adombrare un sospetto, che sono talmente intelligenti i cani che capiscono che quello è un robot. Ma e allora perché scodinzola? Non lo so, mi sono perso, cari ascoltatori. Però su Repubblica una pagina intera, pagina 21, amici di Repubblica, ma allora non siete attenti, non avete capito? La carta costa, ricordatevelo. E ora giornale radio, e poi entriamo dopo. 24 mattino. Eccoci, sono le 8 e 18 minuti, cari ascoltatori, e ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi nel nostro approfondimento vogliamo prenderci una bella pausa dalla politica, quella politica rissosa, inconcludente, diciamola anche un po' noiosa. Sì, la rispondo io per voi. Prendiamoci una pausa. Oggi vogliamo parlare di un tema concreto che riguarda certamente tutti coloro che hanno figli, soprattutto in età adolescenziale. Allora, l'antefatto: venerdì scorso a Bologna circa 250 ragazzini, un'età tra i 14 e i 16 anni, si sono dati appuntamento e si sono sfidati in una mega rissa. Hanno fatto a botte in piena città. La cosa che è stata strana sicuramente è che questa rissa è nata dandosi appuntamento su un social network dove questi ragazzini si scambiavano messaggi, il social network Ask, uno anche che va molto per la maggiore tra i ragazzi in questo momento. È un social network che è nato per dare la possibilità ai domandi di fare domande anonime, ai ragazzi di fare domande anonime e ricevere risposte, insomma un modo per gli adolescenti di scambiarsi messaggi. Allora, per carità, vogliamo parlare di questo tema. Guai demonizzare questi strumenti, i social network. Come sempre, ogni strumento può essere usato o bene o male. Il problema è che anche ieri il Corriere raccontava le storie di diversi adolescenti in America, in Canada, in Irlanda. Tutti accomunati da un fatto: avere un'età tra i 14 e i 16 anni ed essersi tolti la vita dopo essere stati pesantemente insultati sui social network da coetanei. Allora la domanda che ci vogliamo porre è: cari genitori, voi sapete questi ragazzi, queste ragazze, i vostri figli che cosa fanno quando vanno sul computer, e quali strumenti si possono avere per certamente non vietare ma controllare che la situazione non degeneri? Noi ne vogliamo parlare intanto con il procuratore capo del Tribunale dei Minori di Bologna, Ugo Pastore, che saluto. Grazie procuratore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei. Senta, partiamo dal caso in sé di Bologna. È davvero insolito il fatto che sia nata una rissa organizzata dandosi appuntamento su un social network, oppure è una cosa che lei ha già visto in passato? No, diciamo che non è insolita, è insolita in queste dimensioni sicuramente. Normalmente questo avviene, ma fra gruppi molto molto molto più ristretti, è sempre, diciamo, con delle motivazioni individuali. In questo caso invece, a quello che sembra, c'è stato un coinvolgimento, se non magari direttamente nell'episodio della rissa, ma quantomeno nella contrapposizione di un numero notevole di ragazzi. Che tipo di reato si può ipotizzare in questo caso? risultato più immediato è quello della rissa aggravata in relazione al fatto che ci sono state delle modeste conseguenze fisiche a carico di qualcuno. Poi adesso dobbiamo ricostruire un attimo quello che è avvenuto nella comunicazione nel social network per vedere appunto se lì sono state usate appunto minacce, ingiurie, altro, e poi chiaramente ricostruire i vari comportamenti individuali. Uno dei punti che lei ha sottolineato, credo in una dichiarazione che lei procuratore ha fatto, è proprio questa: bisognerà capire se alle spalle di questi ragazzi ci sono famiglie idonee oppure se ci sono delle carenze educative, di attenzione. Però sa, procuratore, a volte magari uno pensa di aver dato tutta l'educazione migliore al mondo ai propri figli, e poi il grande tema è: che faccio? Controllo, spio, devo diventare anch'io genitore un tecnologicamente avanzato per sapere tutto quello che succede quando mio figlio apre il computer o si impossessa di uno smartphone? Ormai ce l'hanno in tanti. No, il discorso è che sullo sfondo di questi episodi c'è comunque un deficit educativo riportabile in parte alla famiglia, in parte poi a tutti gli adulti, a tutte le agenzie educative. In effetti noi abbiamo dato ai nostri figli degli strumenti molto potenti che danno una capacità di comunicazione molto, molto facile, però non sempre abbiamo spiegato bene quelli che sono i pericoli. Dire ai ragazzi che su internet non esiste la privacy già consentirebbe a ciascun ragazzo di poter capire che quello che dice, il messaggio che lancia, viene messo a disposizione di tutti e può essere sfruttato da tutti. Questo sì, però procuratore, mi perdoni, un quattordicenne, secondo lei una quattordicenne capisce il senso della privacy? Ma guardi, io le dico che per esempio in alcune scuole dove sono state fatte con alcune associazioni hanno fatto alcune simulazioni dove per esempio dicevano di far comunicare i ragazzi di una scuola media con ragazzi di altre scuole medie, e poi alla fine si scopriva che chi dialogava dall'altra parte non era un ragazzo, un coetaneo, anche se usava un linguaggio ovviamente conosciuto dai ragazzi, ma era una persona che aveva ben altri intenti. Ecco, questo li lascia particolarmente stupiti e comunque li fa riflettere su questo, perché i ragazzi spesso pensano molto semplicemente che quello che avviene virtualmente corrisponda alla realtà. Ecco, metterli di fronte al fatto che quello che è virtuale non è reale, o che moltissime volte non è reale, e che quello che si dice può essere conosciuto anche da altri, effettivamente provato in concreto ha i suoi effetti. Intanto io invito anche gli ascoltatori, se avete su questo tema certamente molto popolare, che posso immaginare interessi molti genitori, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Le chiedo anche questo, procuratore: ci sono i profili eventualmente, e qui si entra in un campo molto anche difficile, per eventualmente perseguire laddove si capisse che un social network in particolare ha istigato dei ragazzi a darsi appuntamento a fare una rissa? Ci sono gli strumenti per andare anche a colpire questo social network? Qui ripeto, si entra in una difficile anche identificazione di dove sono locati e dove... Dovrebbe essere introdotto a livello più generale un principio per il quale chi ha comunque un utile, anche di tipo economico, anche notevole, dall'uso di determinati canali, no? Deve comunque assumere delle responsabilità più chiare e più dirette. E quindi questo consentirebbe già un controllo all'interno della rete rispetto per esempio a comportamenti o messaggi che hanno un contenuto violento, intimidatorio o d'altro. Quindi legare l'interesse a tenere in piedi determinati social network con anche una responsabilità più forte, più accentuata. Diciamo che negli ultimi anni anche a livello europeo alcune azioni nei confronti di grossi gruppi internazionali in effetti hanno lanciato già in questo senso un segnale. Quindi più andremo avanti, più sarà richiesto anche dall'ordinamento, dalle leggi, una maggiore responsabilità di chi ovviamente gestisce con un profitto questo tipo di canali di comunicazione. Intanto, procuratore Pastore, io voglio salutare anche Pier Cesare Rivoltella, che è il direttore del CREMIT, cioè il Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, l'Informazione e la Tecnologia, la Cattolica di Milano. Buongiorno, professor Rivoltella, eccoci qua. Buongiorno a voi. Buongiorno. Intanto le voglio chiedere, lei ha ascoltato il procuratore il procuratore capo del Tribunale dei Minori di Bologna. La domanda ovviamente classica che il genitore si fa è: cosa posso fare io io due o tre consigli pratici per cercare di arginare un fenomeno che rischia in qualche modo, anche per l'invadenza che c'è della tecnologia, di essere incontrollabile. Guardi, è quello che diceva il procuratore prima, posso parlarne, posso educare, perché le diverse strategie di controllo che funzionavano con la televisione, cioè con i mezzi che garantivano accesso alla comunicazione da postazione fissa, oggi con la comunicazione mobile non sono più possibili. Quindi tramonta la possibilità del controllo, semmai educativamente fosse stato efficace da parte della famiglia, l'unica possibilità è veramente trovare spazi di dialogo, spazi di confronto, spazi di educazione per costruire la responsabilità del ragazzo. Non vedo altre vie d'uscita. Cioè l'unica è parlare. Però faccio anche lei la domanda fatta al procuratore. Un ragazzo di 12 anni, perché a volte anche a quest'età hanno ormai gli smartphone, per esempio, no? I cellulari dove si riesce a entrare in rete, essere continuamente in contatto con tutti. A 12 anni o anche a 11 anni o a 13 anni, un ragazzo capisce, oppure per un ragazzo o una ragazzina fa anche, scusi l'espressione, fa figo essere sempre in contatto con tutti, no? Avere amici che poi non sono amici, ma insomma, no, capisce quello che voglio dire, non si sì, ha la coscienza del pericolo che si può avere da, nonostante da adulto gli diciamo stai attento. Certamente, il problema non è lo stare in contatto, il problema e starci in un certo modo, e secondo me la responsabilità si può costruire già quando i bambini sono piccoli, anzi va costruita quando sono piccoli. Qui è un problema di cittadinanza, oggi come oggi credo, il problema dei nuovi media, e quindi non è mai troppo tardi per cominciare ad educare il cittadino. Il problema vero sono gli adulti, secondo me, nel nostro sistema sociale. L'adulto non è educatore soltanto quando verbalizza o tematizza il suo intervento, è educatore nel suo modo di fare, nel suo testimoniare, nel suo fare, nel suo agire quotidiano, e devo dire che soprattutto in relazione ai nuovi media spesso siamo dei pessimi testimoni per le nuove generazioni. Siamo anche, per esempio, ignoranti tecnologicamente. Io mi ci metto tra i primi, nonostante, insomma, per lavoro cerco. Però io quando ieri ho letto Ask, lo conosco anch'io, ne ho sentito parlare da un po' di tempo, ma quando ho letto PhoneSpring, Kick Messenger, Voxer, io mi sono trovato un perfetto ignorante, professore Rivoltella. Non ho paura ad ammetterlo, ho figli piccolini e quindi sì. non ho questo problema adesso, ma è chiaro che rischio di rimanere ancora più indietro man mano che va avanti l'età. Però a cosa dobbiamo costringere, tra virgolette, i genitori a essere per forza aggiornati su tutto quello che succede dal punto di vista della tecnologia? Qui la tecnologia, a differenza di quanto avveniva fino a qualche anno fa, non è più un optional che appartiene alle periferie della nostra esperienza sociale. La costituisce materialmente. Il caso di Bologna è esemplare, una rissa che parte, si costruisce in internet e va a segno in strada. Questo vuol dire che la pretestuosa separazione tra spazi virtuali e spazi reali non esiste, perché oggi gli spazi cosiddetti virtuali sono parte integrante di un'esperienza, la nostra, che è realissima. Tant'è vero che la rissa, ripeto, parte nella rete e va a segno nella strada, e questo convoca gli educatori ad un'assunzione di responsabilità. Oggi saperne di nuovi media non è un optional, ma no, assolutamente, è quasi un obbligo, dice lei. È fondamentale, fondamentale per la cittadinanza. In ogni caso, 800 24 00 24 con il procuratore capo del Tribunale dei Minori di Bologna, Ugo Pastore, con il professor Pier Cesare Rivoltella. Ci sentiamo tra 5 minuti, perché ripartiamo anche con le vostre telefonate. E, ripeto, questa è una vicenda della rissa di Bologna che magari può essere isolata, ci saranno dei profili penali che poi la procura indagherà, accerterà, può essere isolata e messa lì come un episodio avvenuto, non dico di colore, non uso questa espressione, ma quasi un qualcosa di, come dire, che è sempre capitato. Purtroppo le risse, spesso con appuntamenti in altri modo se non quelli tecnologici, sono sempre stati, però purtroppo ci sono anche casi di cronaca, ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, se ricordate, di una ragazza di Novara che si è tolta la vita perché perché si è andati forse un po' oltre, il cyberbullismo si chiama così, cioè perseguitando anche persone che hanno personalità fragili perché adolescenti, e magari istigandole in qualche modo a compiere questi gesti. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:36 minuti. Allora, vogliamo parlare, stiamo parlando di rapporto tra anche tra genitori e figli per quel che riguarda l'uso di tutte quelle tecnologie dove che sono a portata degli adolescenti, spesso vengono utilizzate anche male per scarsa conoscenza dei social network, per esempio, e portano a situazioni, ripeto, il Corriere raccontava ieri anche in alcuni casi tragiche, come la storia di Rebecca, 12 anni, americana della Florida. La madre gli aveva tolto tutto, il cellulare, il profilo Facebook chiuso, le aveva cambiato scuola, ma era finita bersaglio di un gruppo di cyberbulli, entrando in questi social network, magari per una frase sbagliata è stata bersagliata finché si è tolta la vita. Siamo con il procuratore capo del Tribunale dei Minori di Bologna, Ugo Pastore, con Pier Cesare Rivoltella, che è direttore del CREMIT, la Cattolica di Milano. Ci ha raggiunto anche Alessandro Giglioli. Buongiorno Alessandro, eccoci qua. Buongiorno, ciao Alessandro. Lui col suo blog Piovono Rane segue sempre con molta attenzione quello che avviene all'interno del mondo virtuale. Intanto Alessandro, quello che ci raccontava il procuratore di Bologna Pastore, che ci ascolta, è i genitori certamente a volte non hanno gli strumenti per conoscere quello che avviene. Si è sempre detto qua, anche in altre puntate in passato con te, è sbagliato vietare, è meglio conoscere, però sai com'è, a me un po' inquieta insomma l'idea, insomma, conoscere è bellissima, è una bella parola, però conoscere e far sapere non è così semplice, non è così facile. Allora un qualche tipo di controllo ci deve essere da parte dei genitori o no? Sì, io parlerei di presidio più che di controllo, cioè di starci attenti, di seguire, di sapere, scusami se ritorno sulla tua parola, ma anche di conoscere. Ad esempio il sito da cui credo parte un po' la trasmissione di oggi, che è Ask. Perché da lì pare che è nata questa mega rissa bolognese. E il sito Ask è un sito che in pochissimi mesi in Italia ha avuto oltre 1 milione di iscritti, e sto parlando quasi tutti adolescenti, che sono scappati da Facebook, diciamo così, per andare lì. E perché sono scappati da Facebook? Perché su Facebook c'erano i genitori e quindi in qualche modo avevano una nuova forma di controllo. È un sito che ormai è tra i primi 15 più frequentati in Italia. Ripeto, 1 milione è una cifra pazzesca, secondo me, in pochissimi mesi. Teniamo conto che è un sito nato nel 2010. Eppure se ne è parlato pochissimo. Però è interessante questa cosa, cioè tu già ci stai dicendo che sono scappati da Facebook per arrivare lì proprio perché il controllo o il presidio, come lo chiami tu, su Facebook era più stringente dei genitori. È normale, non è solo quello, anche che Facebook è un social network molto generalista, mentre Ask è una rete sociale pensata proprio per gli adolescenti, dove l'anonimato viene protetto, se non addirittura stimolato, e dove dalla funzione originaria di sito di domande e risposte è diventato fondamentalmente un luogo di ritrovo e non dei migliori. Io non amo Ask, però voglio dire, non è come James Cameron addirittura ha parlato di boicottarlo o di chiuderlo. Non credo che sia chiudendolo che si risolvono i problemi. No, ma perché rinasce in altra forma, rinasce esatto, in altro. Poi immaginiamoci che ci siano comunque in ogni città dei quartieri, no? Dei quartieri brutti, dei quartieri dove non si deve andare. Se due genitori abitano in una città, in una metropoli, sanno benissimo quali sono i quartieri che sconsigliano ai figli, no? E non andare lì da solo, si dice. Invece in rete no, perché i genitori, la gran parte di noi, quarantenni, cinquantenni o comunque con ragazzini preadolescenti o adolescenti, non sappiamo neanche dell'esistenza di Ask. Infatti, ripeto, è un fenomeno il problema esploso è quello, negli ultimi mesi, di cui anche noi della stampa mainstream abbiamo parlato pochissimo. Certo, ma è anche di base l'ignoranza dei genitori. Io infatti, esatto. Prima di tornare un attimo al procuratore di Bologna, vorrei sentire un'ascoltatrice. Barbara da Milano ci ha chiamato all'800240024. Barbara, buongiorno. Buongiorno, salve. Io, il mio parere è che probabilmente il discorso di tutta questa tecnologia per i ragazzi, io sono un genitore, premetto, diventa un mezzo comodo per avere un babysitting gratuito per i nostri figli. Nel senso che mio figlio non è un bambino tecnologico, però questo comporta per me una mole di lavoro doppia, perché lo devo portare fuori, devo far sport, lo deve intrattenere. Chiaro che sarebbe molto più comodo dare un Nintendo e lui sarebbe contentissimo e io potrei fare tantissime cose. Sì, però dice, è un gran classico, è un modo per abdicare al proprio certo, dovere, un modo comodo. Lei dice non lo paghiamo come babysitteraggio, ma si rischia, non si vuole ovviamente diciamo incutere terrore, si rischia di pagarlo in altri termini invece certo, molto, molto di più. No, io le dico, Alessandro, una sola battuta che ho colto fuori da scuola un giorno, sì, quando è stato messo in punizione un compagnetto di mio figlio togliendogli l'iPad. La mamma le ha detto a noi genitori: mi sono autopunita perché ho eliminato la migliore delle babysitter. Questo ci dice tutto. Eh beh, abbastanza. Grazie Barbara. Procuratore Pastore, le chiedo questo: ci sono dei profili penali che si possono anche ipotizzare per i genitori, non so, per omesso controllo, mancanze educative, oppure si entra in un campo difficile da dimostrare? No, profili penali non, diciamo, in questo caso non vengono in considerazione. Vengono in considerazione appunto quegli aspetti di eventuali carenze dal punto di vista educativo, che però ecco comportano altri tipi di intervento, a volte interventi in supplenza, altre volte interventi in appoggio, insomma, quindi dipende poi quali sono le carenze. In alcuni casi possiamo anche verificare magari specificamente che c'è un abbandono educativo, allora in quel caso è chiaro che l'intervento diventa come estrema razza. Voi avete già appurato che questo social network, in questo caso Ask, sia davvero alla radice della rissa che si è generata? Cioè è stato proprio così? È stato un appuntamento virtuale che sono dati questi ragazzi? Sembra proprio di sì. Adesso stiamo ricostruendo tutte le comunicazioni che sono alla base poi di questa, quella che ho definito una sorta di sfida locale, insomma, però in dimensione molto più ampia, e quindi stiamo ricostruendo, perché poi non è facile, considerato il numero di ragazzi coinvolti e quindi tutti i messaggi che si sono scambiati, ricostruire adesso come è nata e come si è sviluppato poi. Non è facile. È vero che si sono dati appuntamento come Bolo bene contro Bolo feccia, cioè dividendosi un po' in due, la Bologna bene e la Bologna feccia. Pare di sì. Adesso poi vedremo di capire queste definizioni se sono state, sono maturate occasionalmente nel corso delle varie comunicazioni, oppure fossero già sullo sfondo, quindi già ci fossero stati delineati queste due appartenenze in qualche modo. Vorrei sentire Renato dalla provincia di Bergamo, un ascoltatore. Buongiorno Renato. Salve Milan e salve anche i suoi ospiti. Io volevo solo fare questa osservazione. Io mi occupo di internet ormai da tanti anni, ho avuto la fortuna di vederlo nascere questo fenomeno e ora sono anche genitore, e quello che mi rendo conto guardandomi intorno è che i genitori stessi, di fronte ai social network, di fronte a questi fenomeni, sono adolescenti anche loro, e molte volte loro stesse vittime. Io spesso mi ritrovo a dover dire ai miei amici: ma staccati da quel telefono, ma mola quel computer, perché loro stessi sono vittime di questo meccanismo. È evidente che se tu sei vittima, se tu dai questo esempio, guardi ieri sul Corriere, ma credo che il professor Rivoltella può dare una risposta sia a lei Renato, sia l'ascoltatrice di prima. Professor Rivoltella, l'ascoltatrice di prima, beh, ha detto una frase abbastanza emblematica, intercettata all'uscita della scuola: mi tolgo l'iPad, che è la babysitter più comoda a disposizione per mio figlio. Che tipo di messaggio può dare una madre così, per carità, non vogliamo mica chiarissimo. Giustiziarla dal punto di vista mediatico. Purtroppo la realtà è più complessa di quello che l'intervento dell'ascoltatrice presuppone. Forse è sufficiente proporre alternative costruttive ai figli per poter distogliere la loro attenzione dagli strumenti del social network? Sarebbe molto più semplice. Purtroppo la natura delle tecnologie sempre è additiva, mai sostitutiva, e quindi quei media entrano nelle diete di consumo dei ragazzi come nelle nostre diete di consumo, e le rendono complesse. Da questo punto di vista ha ragione Renato. Le ultime ricerche dimostrano che la presunta differenza tra gli immigranti digitali, che saremmo noi, e i nativi, che sarebbero adolescenti e preadolescenti, non è poi tale. Quindi i consumi sono, e le pratiche di consumo sono molto molto simili. In un processo di progressiva giovinilizzazione degli adulti. Insomma, questo è il problema, ci imitano, solo che loro non hanno magari gli strumenti, loro gli adolescenti, per capire in maniera immediata dove sono i pericoli, hanno anche quell'incoscienza e quella voglia bella di buttarsi, mettersi in gioco, però purtroppo lo fanno in un mondo che non è sempre perfetto. Questo è un bel tema per il quale voglio coinvolgere dopo il traffico Alessandro Giglioli, lui che vive lì sul suo blog attaccato, hai capito Alessandro, qua dovrai difenderti a dire ma come, ecco, uno che vede un genitore così è chiaro che prende quell'esempio e si butta in quel mondo totalizzante, e questo può essere un problema. Tra un attimo. Eccoci qui, allora le 8:48 minuti, hai capito Alessandro Giglioli, tu che stai attaccato al cellulare o all'iPad o al, se ce l'hai, il tablet, i PC, sei sempre su Piovono Rane, Che... No, non sono sempre su Piovono Rane, sarei solipsista, diciamo, cerco di usare la rete come strumento anche di connessione. Di comunicazione, certo, questo sì. Il discorso è un come dire, parte un po' da una presa d'atto, secondo me. Una presa d'atto, cioè internet c'è, i siti dove si nascondono, diciamo, dei pericoli, per essere un po' generici, ci sono e ci saranno sempre. Pensare di chiuderli è come pensare di svuotare il mare con un secchiello. L'unica soluzione che abbiamo, l'unico approccio possibile che abbiamo come genitori, io ho un figlio di 22 anni che ovviamente sulla rete e sulle tecnologie mi straccia, uno di 13 che mi sta per stracciare anche lui e una di 3 che è in procinto di stracciarmi. Detto questo, l'unica soluzione che abbiamo è cercare di accompagnare il più possibile i ragazzi all'approccio di questa rete, specialmente quando sono più piccoli, e cercare di capire cosa fanno, dove vanno, perché ci vanno, da che cosa traggono piacere, quali, spiegare loro fin da lì. Per esempio, la storia del babysitter, è vero, per carità, io ho la televisione, un babysitter elettronico, però in questi siti per policy non ci si può iscrivere prima di 13 anni, no? Vabbè, quindi è chiaro che la colpa, diciamo, è sempre dei genitori. Molti in genitori neanche lo sanno questo, i figli si iscrivono bleffando sull'età, basta scrivere un'età falsa, chiaro, quando ci si iscrive. E i genitori rimangono così un po' come dei baluba, no? A guardare il figlio, non sanno neanche cosa sta facendo, con chi sta chattando, quali tipi di rapporti ha, il che non vuol dire un rapporto di controllo continuo, vuol dire secondo me un presidio leggero. Ho capito, ma tecnicamente cosa vuol dire? Cioè metti, per esempio, dire, metti il PC lì che lo faccia davanti a te? C'è un passaggio precedente, secondo me, che è quello prima di tutto di sapere cosa c'è, cioè quali sono, i quartieri della città. E va bene. E questo è fondamentale. Però nascono, si evolvono, si spostano. E questo ci obbliga a un costante aggiornamento, anche noi immigrati digitali, a una costante verifica di quali sono i siti più di moda fra gli adolescenti. Poi sappiamo che le mode sono passeggere, specialmente fra gli adolescenti, e come si evolvono così si devolvono. Però questo ci obbliga a un costante aggiornamento. E poi questo nelle modalità ha tante possibilità. Parlare con i ragazzi, sapere cosa fanno. E non credo sapere, chiedere a loro. Sì, ma un tredicenne, tu che hai un figlio tredicenne. Ma certo, ma un figlio tredicenne, Alessandro, un figlio tredicenne, sì, per sua natura, ecco, e lo dico apposta, per sua natura tende anche a nascondere delle cose ai genitori. Ma non lo so. Ma come no, ma voglio dire, ma è nella natura delle cose. Io credo che il lavoro vada fatto complessivamente nel rapporto con i figli, poi dopo il rapporto con internet è un decuius, no? È chiaro che se crei un rapporto col figlio in base al quale ci sono ampie zone di oscurità, queste poi faranno. Sì, questo sì. Però insomma, basare sempre sull'educazione. Certo, però il problema rimane. Io vorrei chiedere, procuratore Pastore, senza voler entrare e violare il segreto istruttorio, ovviamente, ma i ragazzini che avete fermato, quelli che sono stati fermati, che cosa dicevano di questa rissa? Cioè, hanno detto boh, ci annoiavamo, ci siamo dati appuntamento su internet, cioè come si sono posti di fronte a questa situazione? Ma diciamo che si stanno sentendo piano piano i ragazzi mano a mano che vengono identificati, quindi al momento abbiamo soltanto i 2-3 protagonisti più immediati e diretti, che sono quelli quelli che hanno avuto delle conseguenze, diciamo. Cioè quelli che hanno subito qualche ferita e quindi... Qualche piccola, sì, una piccola cosa. Cioè... Per tutti gli altri, appunto, adesso si sta facendo questo lavoro, appunto, di identificazione, e piano piano vengono sentiti uno alla volta, stanno ricostruendo, appunto, le modalità di coinvolgimento. Ma di queste persone ci può dire qualcosa? Cioè sono effettivamente, confermano, siamo venuti qui perché su internet... ci hanno convocato, diciamo così. No, convocato no, diciamo che si sono sentiti coinvolti più che altro nei motivi di contrapposizione di fondo, e quindi valorizzando una presunta appartenenza a uno, diciamo, dei due gruppi, un gruppo, diciamo, un altro, un tipo di scuola o un altro, insomma ci sono queste logiche sullo sfondo, e hanno chiaramente poi partecipato. Poi adesso dobbiamo vedere chi ha partecipato attivamente e chi invece è andato lì a spalleggiare o a assistere, quindi questo è sì, per ricostruire è più difficile, perché logicamente non tutti si sono, ripeto, sono stati coinvolti direttamente materialmente. No, ma è chiaro, uno magari dice l'amico, vieni, guarda, c'è un appuntamento. A spalleggiare, oppure a vedere cosa succedeva. Cosa succedeva, chiaro. Sentiamo per concludere Gabriele da Pavia, un ascoltatore. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, cercherò di essere, vista la vastità della materia, il più possibile sintetico. Secondo me ci sono due aspetti che bisogna tenere in considerazione. Uno è quello di cui stavate discutendo poc'anzi, che è l'aspetto digitale, la velocità, è d'accordo. L'altro aspetto, altrettanto fondamentale, secondo me il più importante, è sia quello del bullismo che della sovversività, che nasce invece dall'individuo. Mi spiego meglio. Oggi il problema è di natura diversa, cioè effettivamente quando discutiamo dell'educazione dei genitori è l'elemento centrale. Una persona, un ragazzo ben strutturato, psicologicamente equilibrato, è un ragazzo che non ha bisogno di trovare i difetti nell'altro, è un ragazzo che anzi negli altri cerca il meglio per emularlo. Pensiamo a un atleta che vede un campione che ottiene una prestazione e cerca rispetto a questo di emularlo. Sì, però Gabriele, mi perdoni, lei vede anche il mondo in maniera così molto edulcorata, un po' utopica, bello se fosse così, però purtroppo non è così tutto bello e semplice. Io comunque mi devo fermare e ringrazio il procuratore capo del Tribunale dei Minori di Bologna, Ugo Pastore, e Pier Cesare Rivoltella, che dirige il CREMIT, e il nostro Alessandro Giglioli. Ci fermiamo qua, potete riascoltare tutto su radio24.it. ringrazio Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, il grande alpino Peter Bescapè in regia. Domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.